Friuli nel mondo. 120esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane moderne. Vi dedichiamo oggi, cari amici in ascolto, un gruppo di nuove canzoni friulane eseguite in occasione del Festival di Pradamano 1963 e che giovani autori e cantanti dilettanti, su testi in friulano, hanno presentato al numeroso pubblico accorso nel Parco Giacomelli di Pradamano. Con l'orchestra di Franco Rosso ascoltate Tic e Toc di Angelo D'Ambrosio e di Dante Visentini nell'interpretazione di Helga Chiussi. La tiara batte la luna e ritoncino in mezzo là, questi ricci curpa ricco finalmente innamorato. Urli il vinto al miezzo splantis, la criura s'infissis. Mano in glazzi il cuor di ricco, che ti bat sempre più fis. Di besol rico avanza, corruzzando quegli bieto, i mulo stai pis a battin. Tic e tic, e tic e toc, tic e tic, e tic e toc, tic e tic, e tic e toc. Anzi tra di loro e la luna calma calma lo circonde d'illusione e al cisic al vinte splantis e la notte la gnozzi squinta al scuro, ma per gutte che criure assisinta zemi un cur, ma per stiasis e per stallis la Ed eccovi ora Cha Cha Cha Furlan di Peppino Lodolo, cantato da Franco Menossi. Non si vale più la polche, non mi twiste Cha Cha Cha. E non vecchio sdrindulinsi, senza stare tanto a pensare, che queste musiche moderne, col suo ritmo birichin, ti medduci in allegrie. Dai, dai, catine, tiriti su. Va la miseria, vale anche tu. Anche il curato ne zovi, non mi twista lul balà. Duci vecchio zalu provi, speranzo vins di tornare. E io e te moro spar sempre, se anche non lo so sinza. Sempre le gris d'indulinsi, ballan twiste cha cha cha, dolce pane in pane stradi, sì sì nome a Berghella, son rivascatine pepo, barballà e cia cia cia. Dai, dai, catine, tiriti su, fa la miseria, vale anche tu. Anche il curato ne zovi, nome tu istallulbala, tu ci vecio zalo provi, speranzovi di tornare. E io e te moro spa sempre, se anche non so sinza, sempre le gris d'indurinsi, balan twiste cia cia cia. Dolce balin palistradi, si si nome a Berghella, son rivascatine pepo, par balla e cia cia cia. Barballà e cia cia cia, barballà e cia cia cia. Galdino Turco, con l'orchestra di Guido Cergoli, interpreta la canzone dal titolo Il Gnò Ben, musicata da Ottavio Paroni, su versi di Pietro Someda De Marco. Ed infine In Friul Cence Morose, che la soprano Helga Chiussi interpreta con particolare brio. Musica di Ettore Ballotta su versi di Guido Michelutti. Di là in zir as nasicar, parche bionde, parche more, che ti sepi consolar. Si basile, si basile, si basile, ma se drete non ti va. Friul cence morose, non si crepe di passione. Se è finte o capricciose, assia e se come do. Bev, bev tu meni, bev, bev tu toni. Che si ne ogni passione, che non resti niente su stoni, che il malanno è di stagione. Mio cosin anveve une, che squarzeve sempre il nas, e ha di u infortune la lasara a cui ci plas. Ma se un'altra che tu ami sul blu i viel la notte il ve a notte il ve. Che non resti niente sul sogno, che il malale è di stagione, che il malale è di stagione. La la la la la la la la la la la la la la la. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.